Il lupo e i pastori, da favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Un giorno un lupo in piena umanità, se alcun ve n'ha, crudele sì, ma per necessità, fece una riflessione assai severa sul suo brutto carattere di fiera. Ognun, diss'egli, ognun mi vuole male, e cani e cacciatori e villanzoni congiuran contro un povero animale e innalzan orazioni a Giove che lo cacci dalla terra, come si sa che ho fatto in Inghilterra. Mettono il pelo e la mia vita a prezzo e non c'è signorotto di campagna che non badisca il lupo con disprezzo, né bimbo c'è che strilli un poco o pianga a cui la mamma non ricordi il cupo o nome del lupo. E tutto ciò per qualche asin tignoso, per qualche agnello mezzo incancrenito, per qualche can rabbioso che non aguzza manco l'appetito. Ebbene, d'ora innanzi e carne ed ossa di vivi fo solenne giuramento di non mangiare, ma insalate e strame ed erbe sole, o possa prima morir di fame. Mentr'egli giura, vede dei pastori che sta mangiando un povero agnellino, cotto allo spiedo. Ah, ah! Questi bravi signori che parlano della mia crudelità sanno gustare il ghiotto bocconcino. Ben si impinzan la pancia essi e i cani, ed io che sono il lupo starò digiuno e avrò rispetti umani? No, per tutti gli dèi, sarei corbello a farmene un riguardo. Ben venga dunque in bocca agnellin, agnelletto, agnella e agnello, e quanti son di questa gente sciocca, sian essi crudi o cotti non ci guardo. Avea ragione il lupo, è stravaganza pretendere che, mentre l'uom ghiottone cena e pranza, mangiando gli animali, i poveretti abbian lesinare sul boccone. Vogliam serbare a loro, soltanto a loro, dell'età dell'oro, i cibi duri e schietti? Non han stoviglie, spiedi ed instrumenti? Ma il lupo non ha torto, e dalla vita non si rassegna ancor dell'eremita se può mostrare i denti. Fine della favola. Il lupo e i pastori. Questa registrazione è di dominio pubblico.